Non mi interessa con chi ti vedi, non ha importanza che gusti hai, che fiction sogni, che prezzo chiedi, non conta niente se te ne vai. Non nemmeno che dischi ascolti, dei fiori non si capisce mai, che cosa resta quando li hai raccolti. Io lo so bene, ok, come si brucia sul rogo, e so la croce che hai portato quest'anno, ma è giusto che tu sappia quanto sono banale. Io sono uguale a tutti gli altri, come gli ebrei babilonesi in cattività, e le canzoni me le scrive il cane, nel bene e nel male. Ma adesso c'è Veronica tempo, di Veronica giorni, di Veronica solo per Veronica vedi, la vita diversa con Veronica credi, che il vuoto di colpo sia bellissimo neghi, che tutto sia vano e tutto inutile chiedi, un mondo migliore per Veronica uccidi per poterla salvare, baby baby come on. Vale un cazzo che cosa leggi o quanti libri pubblicherai, dei tuoi pensieri puri se passeggi sopra queste macerie che te ne fai. Non voglio piangere sul tuo passato, non ne so nulla degli affari tuoi, di chi è venuto, di chi se n'è andato, di chi ti ha toccato il culo, di chi ti ha detto di sì, di cosa pensa tua madre. Ma so il dolore che si indossa d'inverno, è l'unica certezza di ogni amante mortale, il fatto che mi manchi da star male è la mia unica nuovissima specialità, e il sangue scorre ancora nelle vene, nel male e nel bene, per colpa di Veronica tempo, di Veronica giorni, di Veronica solo per Veronica vedi, la vita diversa con Veronica credi, che il vuoto di colpo sia bellissimo neghi, che tutto sia vano e tutto inutile chiedi, un mondo migliore per Veronica uccidi per poterla salvare, per toccare la pelle di Veronica, gli occhi di Veronica, l'ombra di Veronica, vivi per Veronica vedi, Berlino distrutta dalla svastica chiedi, che lei sia più dolce la rinascita neghi, che tutto è una merda intollerabile preghi, per un mondo migliore per Veronica scrivi una canzone d'amore, baby baby come on, oh baby baby baby, oh baby baby baby come on, oh baby baby baby baby baby, oh baby baby baby come on, oh baby baby baby baby baby, oh baby baby baby come on, oh baby baby baby baby baby, oh baby baby baby.